fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Ci siamo, Ristorato e Convento, sabato sera diretta in compagnia degli amici che vengono da Verona. Allora, tra di voi c'è un amico speciale, però, giusto, ragazzi? Non, non è un amico che si trova tutti i giorni. No, una volta all'anno. Una volta ogni 2000 anni. È un po' anziano, però li porta bene, dai, tutto sommato. Sì. Come ti chiami? Mirko. Mirko? Sì. Ma come mai questa scelta degli amici di vestirti così? Non lo so, chiedi a loro. Chi è l'artefice qua? C'è l'artefice. Ah, è fuori, perfetto. Abbiamo, l'unico è quello lì? È quello tutto sorridente. No, ma in piedi? Boh. Ah, è in piedi così? È l'altezza di mezzo busto. Vuole la benedizione. Ma diciamo che rappresenta un po' la persona, proprio come vestito. Ah sì, perché sì, io sono molto di chiesa. È molto buono. È che ha fatto il cricchetto per tanti anni, adesso ha preso la... adesso ha preso la promozione, mi sembra. Ho cantato anche nel coro. Ah, pure? Cintura nera di cricchetto. Cintura nera di cricchetto più corista, quindi io farei un piccolo coro, visto Stai attento perché faccio del male, ecco. Cintura nera. Ecco, ci fai una piccola canzoncina. Alleluia. Così, Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sulla solo ho iniziato a prendere paura, eh. Sulla solo ho iniziato. Ma è vero che qualcuno di questi ti tradirà? Che mi tradirà? Di solito quello che meno ti aspetti, quindi penso il fratello mi tradisce. Ah, il fratello, che è questo in parte. Come si chiama il fratello? Ronny. Il fratello Ronny? Però non è Red, no. È solo Ronny. Ronny James Dio. Ah, perfetto. Certo. Perfetto. Attenzione, il pesce rosso è vostro questo? Sì. Okay, lui lo moltiplica. Quello tra l'altro. Cugino. Di questi così non moltiplicarli però. Li ho già moltiplicati. Un cugino così basta e avanza, io direi. Stai contento, guarda. Ecco, ti vuole. Ho detto che ti fa la festa dopo. Anche no. Completamente sobrio. Sì, no, si vede che non è proprio. Non ho bevuto niente. No, ma si vede che è al naturale così, Ok. Poi dimmi un po' i nomi dei discepoli qua. Damiano. Al microfono. Damiano, Marco, Filippo, El Para. È straniero questo, no? Sì, è straniero. È dal Messico? Esatto. Ah, messicano? Davvero? El Para? Sì, ah, ho indovinato? Perché praticamente ha messo incinto la moglie e è andato via. Non ho capito, lui ha messo incinto la moglie? No. Ha messo incinta la moglie, poi è andato in Messico, adesso è diventato El Para. Non parliamo di messe. Non si capisce bene, tu hai capito, tu che conosci la storia? No. Ah, ok, perfetto, mi piace molto. Invece conoscete la storia di Mirko, la conoscete? Sì. Sì, è un miracolo che sei fidanzato. Miracolo che si sposa. Ah, un miracolo che si sposa. Io ho sempre detto fatemi l'addio celibato, ma sposarmi mai. E invece alla fine mi sposo. E come hai fatto a cascarci? Cioè, strumento di tortura ha applicato? Ho trovato una bergamasca. Ah sì? Sono cazzi. Ah sì, la bergamasca, proprio se uno incontra una bergamasca si sposa e non c'è. E sono cazzi. Ok, perfetto. Ma spiegami un attimo, ma ti ha obbligato o sei. No, non mi ha obbligato, mi ha fregato. Ah, perfetto. Sfigato sotto tortura. Sotto tortura, adesso sì, sì, mi sposo. Cioè, che tecnica? Spiega agli amici a casa che hanno paura. Perché gli amici a casa non sono le stigmate che hanno le mani. No. Ah no, ok. Non sono i chiodi per la croce, sono. Cioè, le volte ti ha messo al chiodo, Sì, mi ha messo al chiodo. Ti ha messo in croce e ha detto. O mi sposi o non ti stacco più. O ti schiodo. Ah, o non ti schiodo. Quindi chiodo scaccia chiodo. Ecco. E alla fine hai detto vabbè, mi sposo. Alla fine sì, mi sposo. Ok. Red, fratello Ronny, sei contento che ti lascia libera la casa? Beh, io è già un anno che sono via di casa, quindi. Ah, sei già andato? Sì. Beh, io è già 7 anni che sono via di casa. Ah, quindi perfetto. Allora, sei già andato. Ma alla fine del gruppo è il primo che si sposa, questo? No. Ah, no, cioè, ecco quello silenzioso, no, che dice io meglio anche gente esterna che sono riusciti anche loro. Questo è corna, ecco, purtroppo. Ecco, purtroppo non possiamo farlo vedere perché siamo in radio, però che, tra l'altro, è il mio testimone. Vedo, è il tuo testimone? Sì. L'hai scelto bene. Sì. E tra l'altro è anche il mio primo datore di lavoro. Ah, ecco. Beh, soprattutto è importante quello. Facevo le croci. Ah, ti dici, come lavoro? Sì, con lui facevamo il falegname, facevamo le croci per crocifiggere le persone. Sei un falegname in pratica? Adesso faccio metalmeccanico. Ah, perfetto. Ho finito di farmi le seghe. Ecco, giustamente, perché faceva il falegname, giustamente, per quello. Certo, qualcuno certo. Magari a casa ha sentito male, perché... No, nel senso di usare la sega. Ricordiamo che era falegname, Mirko. Di usare la sega, intendevo, ecco, perché usare la sega. Ecco, dai 15 adesso anni... Adesso uso il tornio, è tutta un'altra cosa col tornio, Certo, ecco. Certo. Fantastico. Fantastico. Allora, ragazzi, con chi ti sposi l'hai detto? Con Anna. Anna, dillo al contrario. Anna. Bravissima, preparatissima. Se questa la sa, volevi fregarmi. No, anche così riesce. Sapete, no, tipo le interviste, quelle impossibili, quelle che facevano. Se TV. Vuoi, ti dico anche il mio nome e cognome al contrario. Mi chiamo Mirko Cremonini, Omerk Okrim. No, perché ha una doppia cittadinanza, lui viene anche dalla Turchia, quindi in turco si dice così, Yes. è per quello, voleva illuderci a tutti. Sei, che vuol dire yes. Comunque allora, sì. Gli amici a casa non ci vedono, ma siamo molto imbarazzati dopo questa cosa. Sì, sì. Ma di lui siete imbarazzati? Sì. È imbarazzante come amico, ragazzi. Sì, parecchio. Sono vestito. Ma più che altro vorremmo vederti anche di giorno normalmente. No, ma io vado via così. È uguale così. Sì. E quindi siete sempre imbarazzati allora con lui. Sì. La fortuna che ultimamente che ha piovuto tanto, inondazioni di acqua, lui andava sempre al lavoro perché camminava sulle acque. Fantastico. Fate un applauso al fratello che ha fatto la battuta. Grande fratello. Grande. Lui ha fatto la battuta, ma è la verità. C'è la benzina che ho risparmiato. Immagino. Certo. Mi sorprende che andassi al lavoro anche addirittura. Cioè, potevi fare. No, ma io al lavoro ci vado per passatempo. Ah, passatempo, giustamente. Sì. Ecco, ricordiamo al datore di lavoro lì che ci fai per passatempo. Allora. Sì, perché con lui usavo la sega. Adesso col tornio, ecco, ricordiamo che hai cambiato attrezzo, ma il succo non cambia. Esatto. Ecco. Va bene. Ma abbiamo presentato gli amici con i nomi? Sì, abbiamo già fatto tutto. Sì. Ok, vuoi salutare qualcuno a casa? Saluto Anna, i miei genitori, tutti quelli che mi conoscono, e ciao a tutti. E quelli che anche ti disconosceranno. E vediamo dopo. Se domani torno a casa, soprattutto perché non so qua come va a finire. Ah, non sai se ti riportano? No. Ah, venerdì scorso hanno fatto i bastardi. Sì, non dire parolacce che sei. Sua santità. Hanno fatto i cattivi ragazzi. Ecco, bravo, così. Mi hanno preso da casa, mi hanno portato fuori al bar, mi hanno detto dai, beviamo una birra, intanto Anna ti fa la valigia che andiamo via. Sì. E è tornato a casa, mi hanno detto vai a prendere la valigia che andiamo via subito. Sono andato su a prendere la valigia perché ho il secondo piano. E torno giù e non c'era più nessuno. Veramente? Sì. E ho aspettato fino ad oggi. Non ci credo. Sì, sì. No, che bello. Ho aspettato fino... Che bello per Bellissimo. Te. Che bello. Grazie. Per te, non per me. Ci sei rimasto malissimo. Sì, sono rimasto di cacca. Parlo che è creativo, è grande parlo. Sono rimasto di cacca. Molto, molto, molto. Grande. Bello. E adesso sei qua però a festeggiare la Dio Celibato. Eh beh, ma non sono ancora convinto che sia questo il mio, perché magari mi portano a casa, adesso non lo so. Si sa mai. Bello, bravi. Fatemi un applauso, ragazzi. Bravi. Allora, da dove venite? Ricordiamo da dove venite. Allora, noi veniamo da Verona. Salizzole, che è in provincia di Verona. Ok, va bene. Salutiamo di nuovo tutti. È il Paso o no? È il Para. Filippo. È messicano. Filippo. Marco. Damiano. Ronnie, James Dio. E Mirko, quello che si sposa. Ciao. Ciao. Saluto. Ciao. Saluti.